l'ho pisciato sotto i portici di Bologna, dopo aver suonato il circolino senza gloria, con l'egiziano che mi grida: cazzo fai? Se non sparisci ti farò passare guai. Ma sono le 4:30 ormai e sono ancora qui a Bologna. Ma non mi spiego come mai, se sputo a terra non ritorna. E dopo essermi spostato da quella serranda, mi son diretto verso il culo in cui mi manda. E dopo 10 o 100 passi mi voltai, ma simulando sobrietà non obiettai. Pensai ai dolori fastidiosi come le zanzare, quando ti pungo non ti resta che grattare. Ho resistito ma per farmela passare, l'ho perdonato per sentirlo bestemmiare. Ma che c'è di male che sarà? So stare sotto i portici di Bologna è un po' come sognare quando tutto intorno è pioggia, con gli studenti sulle lambrette del domani, in un futuro stretto che gli sgorga dai fanali, tra le due torri, Piazza Verdi, quella grande, e le fontane di chi abbassa le mutande. Con gli occhi al cielo mi sentivo anche un gigante, nel ricordarti di chi poi ti ha fatta grande. Ma che c'è di male che sarà mai? Perdersi al centro di Bologna. Ho pisciato sotto i portici di Bologna, dopo aver suonato il circolino senza gloria, e perché ho bevuto e mi sentivo disperato, che su quel palco non mi avevano cagato. Ma se avrò pazienza troverò quel senza Dio che sta a Bologna, senz'altro qualcuno come me, sotto una luna un po' balorda, che entrerà in quel portone, salirà quelle scale, per quel pianoforte che non smetta di cantare. È una puttana, una baracca, un materasso, ci potrà ancorare.